Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corde, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ascoltatori di Radio 24, anche in questo sabato oramai pre-capodanno i conti della Belva si uniscono a voi, iniziano ad alzare il calice che molti di noi non hanno mai abbassato, in realtà ormai dal 24, quindi il nostro fegato protesta, ma con lo sottofondo lo riconoscerete naturalmente, sono i fireworks, i fuochi d'artificio di Handel, e quindi questo è lo spirito gioioso, vedremo se è gioioso per una volta, dei nostri conti della Belva, che oggi dura solo un'ora e quindi ha per questa ora i compari dei conti della Belva al completo. Sentiremo un ascoltatore perché ci deve dire una cosa di che cosa gli è successo. Non dimentichiamoci mai il fisco italiano che ci fa toc toc anche nei giorni di festa. Ma intanto Oscar Giannino vi saluta, insieme a lui Mario Seminerio, e collegati abbiamo Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli. Ma che bello, fratelli, avervi tutti insieme. Allora, siete ancora sobri? Sì, siete sobri. Renato, sei sobrio? No, siccome la settimana scorsa non ci siamo poi sentiti, sì, avevo una carambata da farvi, ben augurante per l'anno nuovo. Sì. Perché vi dovevo spiegare una cosa sulla finanziaria. Sì. C'è una parte della finanziaria che mi fa molto piacere, anche se secondo me poi non riusciranno a prenderla, che è il bonus bebè, perché divento nonno. Ale! Volevo darvela in diretta e farvi la carambata, questa notiziola che non vi avevo ancora dato, però spero che non lo prenderanno perché hanno fissato il bonus bebè a 25.000 euro, quindi insomma imprenditore esportatore. Però ragazzi, cominciamo proprio con l'eredità del 2017 nella finanza pubblica. Io vi dico che ho dato nei giornali per cui scrivo un voto comunque elevato a Padoan, perché secondo me il PD gli deve un monumento a Padoan, nel senso che Padoan ha portato nei 3 anni a Renzi e poi a Gentiloni poco più di 2 punti di PIL di deficit in flessibilità autorizzata aggiuntiva da parte dell'Unione Europea, senza rovesciare un tavolo, rompere un bicchiere, rompere un piatto, cioè un maestro della spesa in deficit keynesiana corretta per il ciclo. Secondo me merita un monumento. Io avrei fatto altro, con lo scudo della BCE in atto avrei fatto una manovra sul debito pubblico. Invece questo governo lascia 2019, 2020, 2021 3 anni di altre clausole di salvaguardia, cari ascoltatori, ci sono una trentina di miliardi di euro in 3 anni di aumenti automatici di IVA e accise. Questo non dimentichiamoci. Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno ha detto oramai la ripresa è partita, vero, però noi il risanamento strutturale lo abbiamo allontanato nel tempo, non abbiamo inciso sulla spesa corrente, non abbiamo diminuito il debito pubblico, sì l'abbiamo stabilizzato ma comunque resta elevatissimo, ora che Dio ci salvi quando il qui della BCE finisce e che niente sul scena internazionale faccia avvampare qualche preoccupazione sul rischio sovrano in più, perché a quel punto torniamo in condizioni poco prevedibili. In più aggiungo che aver fatto sparire l'IRI, su cui per un anno tutti si erano preparati, stiamo parlando di più di 2 milioni di microimprese, facendosi il conto che sui redditi 2017 avevano il minor gettito al loro carico per oltre 1 miliardo, è stata veramente una schifezza. Cambiare il regime fiscale sui redditi da partecipazione in società estere è regressivo e colpisce i piccoli che ce l'hanno, a differenza dei grandi. Sulla web tax ne abbiamo parlato, ma ve la ricordo solo per inciso. Quindi comunque complessivamente una legge di bilancio, sì, che non ha fatto scattare l'IVA, ma che a mio giudizio è una roba non troppo positiva, anche se io Padoan lo salvo. Mario, tu che dici? Ma io sono abbastanza d'accordo con quello che tu hai detto. Sicuramente Padoan è stato un elemento di garanzia nel quadro europeo per il governo italiano. Poi si è trovato a sua volta a dire numerose bugie bianche, come si dice in questo caso, ma insomma, alla fine Padoan è un tecnico ma è anche un politico, visto che la sua, così, le sue antiche frequentazioni politiche sono riemerse. Io ribadisco quello che diciamo da sempre, cioè l'unica vera chiave di volta per questo paese è la riduzione stabile del rapporto debito-PIL. Averlo solamente stabilizzato ad oggi in un contesto di ripresa vigorosa come questo, perché oggettivamente è vigorosa questa ripresa, anche se poi noi siamo un paese che ha un potenziale che secondo me non si allontana molto dall'1% di crescita di PIL, ma avere solamente stabilizzato il debito PIL non basta. Cioè, noi vedremo se il prossimo anno, a Dio piacendo, con una politica che promette di dare il peggio di sé a partire da marzo, riusciremo a fare scendere questo rapporto debito-PIL, allora forse innescheremo un circolo virtuoso. Però io ribadisco quello che dico e scrivo da molto tempo: teniamo e tenete gli occhi sul rapporto debito-PIL, che è praticamente la chiave di volta del nostro futuro come comunità nazionale, per usare termini abbastanza altisonanti. Caro Alberto, tu che dici? Io sono abbastanza soddisfatto anch'io di quest'anno, devo dire che il PIL l'ho fatto calenda quest'anno, l'ho fatto calenda con investimenti che sono cresciuti circa il doppio del PIL, stiamo parlando di 3-3,5% su un PIL che fatica ad arrivare alla metà e probabilmente avrà una coda importante per il 2018, quindi apriamo l'anno prossimo con almeno un po' di filo in cascina. Lo ha fatto il PIL, l'apertura internazionale dell'economia italiana, trainata proprio un po' dalla crescita del commercio internazionale di cui parlava Mario pochi minuti fa. Devo però citare una cosa che so che voi siete un po' più prudenti su questo. A me non sono dispiaciuti i PIR, perché sono stati una mezza buona notizia, cioè i piani individuali di risparmio, una mezza buona notizia sul lato dell'offerta di capitali, che però non ha mai avuto un contraltare sulla domanda di capitale, quindi alla fine stanno inflazionando un po' la bolla. Però stiamo guardando al medio-lungo periodo, sono l'inizio di una riallocazione del capitale, sia l'industria 4.0 di Calenda che i PIR. Certo che è sempre una distorsione degli investimenti per via fiscale, cioè alla fine il governo cosa fa? Promette fiscalità di favore per correggere in maniera anche un po' distorsiva gli investimenti privati, e questa in sé non è una bella notizia se dobbiamo ricorrere a questo genere di strumenti. Quindi insomma è un quadro chiaroscuro. C'è da dire però che sul quadro invece del debito pubblico, fatemi dire una cosa, ho visto proprio stamattina un grafico di Citibank che dice che la BCE è stato l'unico compratore dei BTP da 2 anni sul mercato, tutti gli altri venditori detti, in particolare investitori esteri. E quindi non è bella cosa a fronte di un QI che si va ad asciugare. Quindi non lo so, io sarei preoccupato per il debito pubblico italiano da qui ai prossimi 2 anni. Renato. Io sono, devo dire, grazie come te a Padoan, perché secondo me lì è stato un discorso di credibilità, cioè lui è riuscito a farlo perché era credibile, e mi chiedo cosa succederà dopo le prossime elezioni, ma parleremo del 2018 se non sbaglio nella prossima puntata. Il discorso mio è questo: io sono abbastanza allineato con Carlo Alberto, da industriale ti dico, sono ripartiti gli investimenti, non mi piace molto quando ripartono per delle cose che sono temporanee e che poi scadono, perché rischi sempre di creare un po' di bolla e una discesa un po' difficile e dura. Non a caso io dico sempre che molto della ripresa non si è riverberato sull'occupazione, perché molti dei miei colleghi che fanno magari macchine da investimento o comunque beni da investimento in questo momento non si caricano di personale perché sanno che è una bolla. Eh sì, sono molto d'accordo con te. Io non ho lo stesso giudizio, devo dirvi la verità, complessivamente su altri due ministri, cioè nel senso che per me la Madia è stata una delusione, lo dico, non gliel'ho data su Messaggero del Mattino la sufficienza, perché gestire la riforma della PA rispetto alle intenzioni che erano state dichiarate si è rivelato non all'altezza. Non all'altezza perché il decreto sulle partecipate consente troppe deroghe agli obblighi che in teoria vengono annunciati o di accorpamento momento o di chiusura o di cessione, basterà pochissimo per violarli, vedremo nel tempo. La norma sull'accesso agli atti della pubblica amministrazione anch'essa è piena di deroghe, come si vede già nelle prime evidenze. Si continua a negare l'accesso chiesto dai media o dai cittadini agli atti della pubblica amministrazione da parte dei vertici della pubblica amministrazione. Non voglio parlare poi degli annunci sul salario di merito alla pubblica amministrazione, ai pubblici dipendenti, perché nell'intesa del 24 notte sulle linee generali del contratto pubblico è saltata proprio la norma che doveva servire a impedire che venissero spalmati al 100%. Quindi da questo punto di vista, per quello che mi riguarda, sì, un girino di vite sulla licenziabilità dei dipendenti pubblici infedeli, ma cari ascoltatori, ricordatevelo bene, ieri il primo giudice di fronte al quale è finito un medico a Roma che aveva fatto certificati medici falsi per vigili urbani la notte del maxi astensione dal lavoro di Capodanno di 3 anni fa, bene, quel giudice ha assolto il medico dicendo che è un reato lieve, non punibile, perché non produce gravi danni materiali. Mi prendo la responsabilità di dire che se un giudice assolve falsari pubblici, allora è illegalità di Stato. Altro che riforma della pubblica amministrazione con il merito e contro i furbetti. Che giudici abbiamo? Ecco, questa è la mia domanda fine del primo blocco. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... della belva. Ed eccoci tornati qui in questo sabato 30 di dicembre, oramai previgilia della fine dell'anno, coi compari dei conti della belva al gran completo. Abbiamo visto, insomma, come la pensiamo sull'eredità della finanza pubblica di questo governo. Io aggiungo anche che non do la sufficienza neanche a Poletti, perché Poletti sì, ha difeso un po' Joe Black, che comunque è stato fatto a Palazzo Chigi, e poi per il resto sui voucher ha capitolato lui alla CGIL e ha, secondo me, riregalato un po' di lavoro intermittente al mercato nero, punto numero uno. E punto numero due, la mia opinione è che sui prepensionamenti e la difesa di Boeri è passato dall'altra parte, perché Boeri, con la norma che c'è nella legge di bilancio, rischia di essere giubilato dalla politica, e questo a me non piace. Però proprio su questo c'è una norma nuova, Mario, su cui tu scrivevi ieri, questa che interviene invece sulle cooperative, di cui bisogna dare atto. Sì, io ieri ho scritto un post riprendendo peraltro un articolo del Sole 24 Ore, quindi diamo merito dove c'è il merito. La legge di bilancio ha finalmente, stranamente, mantenuto una promessa della politica, cioè quella di normare meglio la questione del prestito sociale delle COP. In pratica, che diciamo, fino a quest'oggi non aveva vigilanza oggi, ed era ultimo nei rimborsi, quindi la COP andava per aria e la gente ce ne metteva i soldi. Esatto, quindi c'è tutta una serie di norme che non starò qui a dettagliare, ma il cui obiettivo è quello di contenere il rischio. Soprattutto si stabilisce il principio di base, cioè che il prestito sociale deve essere destinato inequivocabilmente alla natura strumentale e funzionale all'oggetto sociale della cooperativa. Quindi non si possono assumere licenze poetiche o fare scorribande o scorrerie in altri territori a latere, che cosa che spesso in passato è avvenuta, purtroppo con esiti non sempre particolarmente così brillanti. Si comincia a creare un'intelaiatura di vigilanza. La vigilanza formale sulle cooperative spetta al Ministero per lo Sviluppo Economico, ma il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio, integrato da un membro della Banca d'Italia, nei prossimi mesi realizzerà le norme aggiuntive anche per creare una sorta di fondo di garanzia. Il limite di un patrimonio netto di un prestito sociale che non può eccedere di 3 volte il patrimonio netto diventa cogente, gli si danno dei denti, le cooperative che sforano avranno 3 anni per rientrare, quindi un arco temporale molto confortevole. Per cui, stranamente, almeno per i miei standard, io mi sento di essere così, di dare un plauso al legislatore all'interno di questa legge di bilancio, perché questo fenomeno abbastanza inquietante, che più volte è sfociato in episodi di vero e proprio risparmio tradito, comincia poco alla volta a rientrare nell'alveo. Le cooperative con il prestito sociale non possono fare gestione del risparmio. La gestione del risparmio si fa altrove, nel bene e, aggiungerei io, nel male. Però è utile che la natura del movimento cooperativo, della cooperazione, venga riaffermata in questa maniera dal legislatore. Quindi per una volta, a meno che io non stia prendendo un clamoroso abbaglio, cosa che è sempre possibile, mi sentirei di dare un plauso al legislatore. Sono d'accordo, anche perché era una lacuna veramente pazzesca, abbastanza clamorosa da questo punto di vista. E andiamo però sul bilancio della commissione, che ormai ha chiuso i suoi lavori, aspettiamo la relazione finale entro il 27 di gennaio, così ha promesso il presidente Casini, la commissione sulle banche. Avete ascoltato, Carlo Alberto, hai sentito che Gentiloni nella sua conferenza stampa di fine anno ha detto beh, se ne sarebbe anche potuto fare a meno, visto il tono di molte audizioni. Ha dato un giudizio sulla commissione voluta dal PD che tutti i giornali hanno interpretato come anche uno schiaffo al PD, che evidentemente ha tarato male tutta la sua posizione, è finito sul banco degli accusati per Etruria, Boschi, eccetera, eccetera. Tu che ti aspetti, Carlo Alberto, da quella relazione, andando ai noccioli del problema e non al colore politico, Etruria, Mariana Boschi, di cui abbiamo fin troppo parlato, tu che ti aspetti? Pochissimo, mi aspetto una sintesi dei pettegolezzi politici e null'altro. Purtroppo non era lo strumento adatto per carenza di domande intelligenti e di persone preparate e per assoluta mancanza di volontà dei convocati di dare risposte chiare. È stato un teatrino a nascondersi, chi doveva fare domande non aveva studiato, chi doveva dare risposte ha eluso, e quindi mi spiace, ma è un'occasione persa. Quindi non mi aspetto una relazione che finirà negata nella campagna elettorale, conterrà soltanto qualche piccolo richiamo alle linee guida del modello di sorveglianza. D'altra parte c'è da aspettarsi questo, l'Italia non si è ancora resa conto che la governance bancaria non è più in mani nazionali, qui non è mai uscito lo spettro dell'Europa e della regolamentazione europea. Abbiamo trattato le banche ancora come se fosse una questione provinciale e nazionale, e questa è un'enorme occasione perduta, soprattutto in un anno 2018 che vedrà MiFID 2, vedrà PSD2, cioè vedrà strumenti legislativi europei occupare il territorio del risparmio, della finanza, come non mai. Ecco, l'Italia di nuovo si presenta impreparatissima quest'anno che ci aspetta nei prossimi giorni, pur avendo proprio sprecato l'occasione per parlare non solo del passato ma del futuro della finanza delle banche italiane. Ma a proposito, cari ascoltatori, ci scrivete per favore che cosa vi sta cosa capita nelle banche oramai che mancano poche ore dall'entrata in vigore della MiFID 2, voi avete esperienza diretta del fatto che vi stiano sottoponendo a un'informazione penetrante, pervasiva, precisa di come cambiano gli obblighi? Ma stai scherzando? Voi ci dovete scrivere, perché su questo noi andremo avanti per tutto l'inizio dell'anno, Carlo Alberto, perché io spero che... Assolutamente. Dicevo che siccome i PIR sono stati almeno una buona notizia rispetto alla riallocazione degli investimenti italiani, che erano del tutto sbilanciati sul debito pubblico e sull'immobiliare, certo che non basta riallocare, bisogna educare, bisogna garantire trasparenza, bisogna ovviamente anche ridurre i costi dell'intermediazione italiana, che sono tra i più alti al mondo, proprio perché abbiamo un modello iperframmentato del sistema bancario. Ma Renato, ma tu, per quello che riguarda la tua impresa, gli impieghi sono a livello 2008, tornati a livello 2008, sono scesi perché hai un minore assorbimento di capitale, perché invece il sistema bancario te li procura diversamente? Ci dici come funziona per te? Io sono la persona sbagliata. Purtroppo per fare i calcoli sugli impieghi bancari, perché il giorno che chiudo i conti correnti mi devono dare indietro i miei soldi, quindi non faccio parte. No, io ti posso dire quello che vedo in giro e che sento in giro. In giro io ho sempre visto molte lamentele. Poi quando andavi a scavare, invece, scoprivi che tutto sommato le aziende decenti non hanno avuto poi quel ristrettezza di credito che si racconta in giro. La verità è che tutte quelle aziende che erano borderline e quindi erano un po' traballanti hanno perso la stampella del Confidi, la stampella del direttore di banca amico, la stampella di quell'altro che interveniva politicamente cercando di fargli dare i soldi perché magari la banca era una di quelle piccole, eccetera, eccetera, e quelli sono in difficoltà. È meno male però, dai Renato, scusa, però, devo imparare a camminare da solo questi imprenditori, no? Io Voi ricordate che i dati li abbiamo dati la sabato scorso e abbiamo ricordato che siamo ancora almeno 19% in Lombardia all'industria sul 2008. Certo, però sai, aspetta, Mario vuole dire una cosa. Sì, tirano anche meno, però Oscar, la verità è che ci sono anche stati, c'è stato un rallentamento molto forte degli investimenti in questi anni. Però probabilmente con la ripresa una componente che deriva dal fatto che magari hanno efficientato la gestione del circolante, hanno più liquidità da ricavi, margini migliorati, eccetera, per cui magari hanno meno esigenza di tiraggio, prescindendo dal discorso degli investimenti, quindi magari una componente della riduzione è anche lì. Ma infatti una cosa che ho detto a Fabio e avrei detto se intervenivo la settimana scorsa, cioè Fabio Bolognini che è intervenuto la settimana scorsa, avrei detto che, è che tutto sommato la crisi a molte aziende ha fatto bene, perché si sono finalmente molti miei colleghi resi conto dell'importanza di guardare anche la finanza o le vendite. Esatto. E quindi conosco tanta gente che ha cominciato a fare il ragionamento e dire ok, facciamo fatturato, però se il fatturato ha rischio, pagamenti cattivi, eccetera, eccetera, forse è meglio rinunciare a qualcosa di fatturato e migliorare un po' i flussi di cassa. Perché questo è poi alla fine quello che è successo, no? E se succede una cosa di questo genere c'è un po' più di efficienza nel sistema. Non dimentichiamoci tra l'altro che con il discorso di Industria 4.0 una cosa che è stata fatta è stata detto che il 20% mi sembra che sia va versato entro l'anno, cosa che per esempio ha portato un buon flusso di cassa per tutti quelli che stanno facendo gli investimenti, cioè per tutti quelli che stanno vendendo i beni di investimento che andranno in 2.4.0. Infatti i dati che sono usciti sono in alcune filiere ci sono aumenti double digit esattamente di chi fa automazione e macchine, ma sono veramente molto molto impressionanti, dovuti esattamente alla cosa che dicevi tu. Ma caro Alberto, in questo secondo blocco che va a finire, quante fusioni ci dobbiamo aspettare nel 2018 secondo te? Previsioni sono che passeremo da 500-600 banche a 100 sì e no gruppi bancari, sostanzialmente non sono io, sono la previsione dell'ABI. I prossimi 3 mesi, 4 mesi porteranno alla decisione finale sulle banche di credito cooperativo. Sempre che le impugnative tra popolari e banco di credito, non, io credo che il credito andrà, oramai sono 3 le holding e buonanotte. Sulle popolari c'è un rischio aperto. Sì, è così, però siamo agli sgoccioli, ormai il quadro europeo è chiaro e tutte queste ipotesi che ancora ricordate l'anno scorso erano in vigore, bail-in da ritardare, niente, la gabbia, e questa è una bella notizia, delle regole europee si è chiusa e scusate, mi dispiace, ma i tentativi di fuggire sono andati a vuoto. Questa è una buona notizia di quest'anno 2017. Quest'anno italiano il prossimo anno vediamo. Cioè, va bene. Immaginate di cosa ci vuole per il fintech, cioè cosa ci vuole a livello di investimenti per il fintech, come fanno le piccole banche a farlo? Ah no, ma infatti sono d'accordo su questo, ma sai, noi veniamo da decenni di elogio delle territorialità, le piccole, quelle che reggevano meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Torniamo tra poco. Della belva. Ed eccoci qua puntualmente ritornati. Oscar, Mario, Carlo Alberto dal telefono. Ecco, anche Renato dal telefono. Anche, Renato dal telefono. Allora, ci ha raggiunto telefonicamente un ascoltatore che vi deve ricordare. Serve a ricordarvi che anche sotto Capodanno in Italia succedono delle cose singolari. Non solo i giudici che fanno sentenze di quel tipo a Roma, che mi hanno scandalizzato in una maniera pazzesca, ma noi continuiamo a essere soggetti a un trattamento di tipo spesso intollerabile da parte del pubblico, del signor Stato. E allora, Andrea Craveri, grazie di essere con noi. Ciao, ciao a tutti. Allora, grazie per avermi chiamato. Qui abbiamo iniziato la puntata con Renato Cifarelli che ci ha annunciato che diventa nonno e quindi in teoria è il bonus bebè, anche se lui nella soglia di redditi non c'è. Non lo vede. Andrea ha una vicenda che gli capita proprio sul bonus bebè, così? Esattamente, sì. Allora, dunque mi è successo questo. Io ho 44 anni. Ho avuto la fortuna di avere 6 figliuoli, ecco, quindi sono un multipadre in questo periodo abbastanza complicato e costoso soprattutto. Non vi faccio la storia del mio lavoro perché non è importante, nel senso che comunque mia moglie è medico, ce la caviamo. Abbiamo ricevuto il bonus bebè per nostra figlia Caterina, che è nata il 6 dicembre del 2015. Sì. Ok, è un bonus fisso, più c'è un contributo, secondo l'articolo, mi sembra, il decreto legislativo 66 del 2014, di 80 euro fissi. Ok. Purtroppo per le mie vicende lavorative io cambio lavoro e apro la partita IVA il 1 settembre del 2017. Comunico all'INPS come da regola, come è giusto, questa cosa, come è giusto fare, ci mancherebbe altro, mi viene sospeso il bonus bebè. Non capisco bene perché, vado a guardare i conti, vado a capire eccetera, e poi ricevo una risposta imbarazzante dall'INPS. Nel senso che io dico, ma scusate, perché mi avete sospeso il bonus bebè? Perché la tua DSU, adesso Oscar tu sei meglio di me a spiegare cos'è una DSU, ha una irregolarità. Ok, perfetto. Qual è l'irregolarità? Era il fatto che mio fratello Stefano, gentilissimo, aveva regalato al mio quarto figlio Filippo Maria un buono postale del valore di 150 euro. Ragazzi, tu avevi nascosto lo Stato questa cosa. Oscar, abbiamo traslocato, io ho smarrito il buono postale. Ah, quindi non ce l'hai neanche il buono postale. Non so più dov'è, ma non è finita la cosa. Non è finita la cosa, perché allora chiami la posta. Chiami la posta e dici ho smarrito il bonus postale, devi fare denuncia di smarrimento ai carabinieri. Fai denuncia di smarrimento ai carabinieri. Presentala all'INPS. All'INPS non basta la denuncia di smarrimento ai carabinieri. Perfetto, cosa devi fare? Allora devi andare, la posta ti dice che devi andare all'ufficio postale di persona, perché non puoi farlo chiaramente online, e chiedere un accesso ai buoni fruttiferi. Cosa che perfetto, tu fai, ti rechi all'ufficio postale, cosa ieri ti dicono? Sono andato ieri e lo può fare solo il direttore. E non c'è il direttore perché? È in ferie. E però nel frattempo la tua scadenza per poter fare... l'INPS vuole questo entro il 31-12. Però il direttore non c'è. No, è ferie fino a 6. Ciao al bonus. Perdo circa 600 euro di bonus bebè del mio sesto figlio, l'unico bonus bebè che ho avuto dallo Stato per il sesto. Cioè io ho 6 figli, ho avuto un solo bonus e me lo stanno fottendo modo. Però devo dire, sono stati abilissimi a capire al volo che ci avevi il bonus postale di cui ti eri anche dimenticato, che è stato... quando vuole lo Stato, come vedi, datili a tutti. Ma in realtà è una tecnica molto astuta per puntare al settimo figlio, questo qui, no? Immagino. È per guadagnare sul signoraggio postale, no, sia tuo fratello di non fare questi investimenti assurdi. No, ma ragazzi, voi capite che sotto le feste sentirsi dire l'INPS riesce a dire no, c'hai un bonus che mi hai mascherato. Ok, va bene, d'accordo. Dopodiché, ai carabinieri non basta. Dopodiché, no, c'è l'accesso postale, vai lì e ma non c'è il direttore, quindi il direttore torna l'anno prossimo. Dice, ma io devo presentare il 32. L'hai perso. Posso fare una domanda così abbastanza da... Ma come mai questo buono postale è materiale materializzato anziché essere, diciamo, digitale smaterializzato? È stato fatto emettere fisicamente, perché di fatto i buoni postali non si emettono più più fisicamente, no? Invece... no, è 2012, perché era il quarto figlio. Uh-huh. Era il quarto figlio, nel 2012 potevi andare a comprarlo ancora in posta. Ah, ho capito. E quindi ho mio capito. Fratello, da buon zio, voleva vedere la fisicità del sì, giorno. Voleva portartelo in mano e sì, dire, sì, vedi, sì, un sì, pezzo sì. di carta pubblico, viva le poste. Mio fratello, gli facciamo un corso MIFID accelerato di non fare più queste stupidaggini. Comunque, guarda, io non lo so il tuo... E ci sta ascoltando mio fratello. No, io non so il tuo legale cosa ti dirà. Però, santo Dio, sì, noi ringraziamo il fratello. Però uno Stato occhiuto controllore, benissimo, ci sta. Ma che poi ti fotte perché non hai diritto a fare l'accesso nel tempo utile nel quale devi produrre il documento, è una roba ancora una volta. Ma è legalità questa, secondo voi? Allora, ma dai. Posso dirti una cosa, Oscar? Dimmi, Andrea. Io sono schifato di questo Stato. Appunto. Non ce la faccio più e sto consigliando ai miei figli... stanno tutti studiando lingue estere, di andarsene dall'Italia. Io ne ho fatti 6 a 44 anni. Ecco, io ho 44 anni, faccio fatica a mantenerli. Cari politici che dite che voi fate tutto il possibile per la curva demografica, si vede. Questo, ecco, il caso di Andrea. Sapete quanti bonus natalità o bonus per famiglie numerose? Adesso aumentano le bollette elettriche, aumenta tutto. Io che bonus ho? Io devo avere 5 kilowatt, a casa mia si fanno 6 lavatrici. Perché manca il quoziente familiare, no? Continua a mancare il quoziente familiare per equalizzare queste situazioni. Sono incazzato come una elva. Guarda, non ne posso più. Andrea, un abbraccio inutile, però più che metterti il microfono a disposizione e continuare a scrivere, perché voi dovete sapere che Andrea non è la prima volta che mi documenta cose di questo genere, perché una riguardava l'assicurazione RCA e così via. Quindi Andrea è il classico cittadino comune a cui, guarda caso, si tratti di sopraffazione di privati o dello Stato, ne capitano X, come capitano X a ciascuno di voi, solo che moltissimi siete rassegnati. Andrea, quando si arriva al sesto figlio e ti danno il bonus e sparisce, capite che a quel punto uno dice: ma andatevene tutti a fare la festa dove dico io. Va bene, Andrea, un abbraccio ancora e grazie a te. Grazie, e grazie a, tutti a te. E complimenti per ma no, che complimenti. Servizio pubblico. Almeno quello che succede. Puro sfogo, servizio pubblico, ma di puro sfogo. Allora, caro Carlo Alberto, io ti faccio una domanda. Adesso cambio un pochino di impostazione. Va bene che del 2018 parliamo, però diamo un giudizio al volo sulle prime proposte della campagna elettorale, poi più avanti la trasmissione ci allargheremo invece alle vicende estere, Trump e l'Europa soprattutto, ma io voglio sapere da te, avete visto che il professor Daveri ha fatto un primo conto del reddito di dignità di Berlusconi, siamo a 189 miliardi, perché l'integrazione a quel punto per tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 12.000 euro e iniziano ad essere milioni in Italia, più naturalmente l'integrazione a tutti coloro che sono, fa quella cifra lì. Naturalmente questa cifra non verrà mai dichiarata in campagna elettorale. Come si fa, Carlo Alberto, a una campagna elettorale che comincia così, secondo te? Vince il PUSP, il partito unico della spesa pubblica, come sempre. Francesco si è dimenticato di contare anche le visite quindicinali gratuite dei veterinari per la popolazione dei gatti e dei cani d'Italia, di cui voi siete adepti, ok? E che invece Silvio si ricorda essere i grandi compagni di vita degli italiani, quindi ci sarebbe aggiungere qualche decina di miliardi di spese veterinarie, sono 200 miliardi e non se ne parla più. Ma cosa ti dico, Oscar? Avremo 2 mesi di delirio totale e dopodiché il 4 di marzo si tornerà finalmente a obbedire alle regole europee, che per fortuna Dio ce le scampi. Ma, no, ma non alle regole europee, alle regole della realtà, credo, no? Perché no, poi... la realtà non è mai quella invitata. No? È sempre colpa dell'Europa, non della realtà. Voi dite, e mettete invece che la somma degli eletti della Lega e dei 5 Stelle abbia la maggioranza? Beh, ma in quel caso, unito al QE di BCE che va a finire... scappate. No, in quel caso compreremo dei Bund, in quel caso lì. Ecco. Allora, io vi ho fatto questo esempio. Cioè, l'unico investimento da fare è mettere i soldi all'estero a quel punto lì, allora, e non in valuta, cioè non in Italia. Io vi ho fatto questa domanda perché, perdonate, mi ha molto colpito una lettera lettera ricevuta due giorni fa da un ascoltatore che io considero importante, perché insomma ha fatto parte della mia gioventù nel Partito Repubblicano, era un parlamentare. Dice: guarda, io non vi ascolto sempre, in particolare il sabato, però non sono persuaso che ciò che sta arrivando alla vastissima parte degli italiani, gli italiani a maggioranza oramai sono anti-Europa e anti-euro, questo lo sapete perché lo dicono i sondaggi. Dice: io non sono per niente convinto che la maggioranza, che già la pensa così, stia arrivando dalla vicenda Brexit quello che dite voi, cioè questi hanno votato e dopo un anno e mezzo non sanno cosa fare. Al contrario, dice, io sento un po' di gente che dice: ma al contrario, la vicenda Brexit dice che una volta affermato il principio, l'Europa, se sei importante, non ti può prendere a calci nel sedere, è costretta a stare inchiodata al tavolo, e nel frattempo, come si vede, grandi danni non si provocano. Allora, questa cosa mi ha fatto molto riflettere, caro Alberto, perché io non vorrei che molti, io non vorrei, magari è così, molti pensano: oh, bravi britannici, hanno detto che se ne vanno, ma l'Unione Europea non li può mollare, nell'euroarea a maggior ragione, noi siamo il terzo paese, se c'è una maggioranza di qualcuno che dice: signori, o si cambiano tutte le regole, oppure noi ce ne vogliamo andare, tanto non te ne fanno andare via. E, cioè, e qual è il danno? Che, come si risponde a questi, caro Alberto? Ma si risponde col fatto che Brexit non c'entra niente con le politiche di bilancio, è una scelta diciamo di uscire dall'Unione Europea che è, diciamo, che comporta un processo negoziale molto lungo. Qui invece si tratta molto brutalmente di aderire alle regole di bilancio, peraltro ormai costituzionali. Ricordo che abbiamo inserito in Costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio, diciamo ovviamente compensato per la congiuntura, sì. No? Però quindi non c'è un tema di regole dell'Europa soltanto, c'è un tema di regole italiane. Fammi però dire una cosa importante: è ovvio che il mercato non sta scontando in questo momento uno scenario apocalittico, perché altrimenti non avremmo questa situazione di sostanziale stabilità. Il mercato sta scontando una grande coalizione alla fine che si riunisce e che fa 5 anni di movimenti laterali. Questo è quello che sta dicendo il mercato. Lo so, però io temo che se irreale, Salvini non parteciperà mai alla grande coalizione, mai. Ma nessuno lo vuole invitare alla grande coalizione. Berlusconi rompe il centrodestra e Renzi accetta di fronte alla sua comunità, vedremo con quanti voti persi per via di Liberi Uguali, dicendo: faccio il governo con Berlusconi. Non lo fanno in Germania, non ho capito se lo fanno in Germania, perché non possiamo farlo in Italia. Ma perché hanno una tradizione pluridecennale. Impariamo anche noi, caro Oscar. A me sembra che il quadro generale e la conferenza stampa di Gentiloni dell'altro ieri l'ha detto con chiarezza, no? Sì. Il governo non intende come dire uscire di scena, è una promessa più che una minaccia, di sicuro rispecchia quello che pensa il Quirinale, ma che Renzi e Berlusconi possano officiare un rito per cui alle proprie constituency Berlusconi può fare tutto, sono d'accordo, Renzi di fronte alla sua non so. Beh, però non sarà un Nazareno 2, sarà uno stato di necessità, lo presenteranno come tale, poi manifesteranno un po' di dialettica conflittuale, magari andrà così. Sì, ecco. Ma se facciamo come gli spagnoli, andiamo avanti tipo 8 mesi, 9 mesi, che non riescono a mettersi d'accordo, poi in dia facciamo delle altre elezioni e intanto Gentiloni va avanti come se niente fosse. Gli spagnoli non sono mai cresciuti velocemente come in quel periodo lì, quindi. Beh, però comunque, e peraltro Rajoy è un governo di minoranza, sì. Per cui io un governo di minoranza in Italia non ce lo vedo in Italia un governo di minoranza, sinceramente. Nemmeno io, perché ricordatevi che poi la prossima legge di bilancio che arriva c'è un'altra clausola poi di automatica. Lì si scanneranno praticamente. Forse andrà come Carlo Alberto, la versione irenica della grande coalizione fino alla legge di stabilità 2019, e lì succederà magari il casino, perché questi altri miliardi di clausole da sterilizzare. La verità è che mi ha inquietato molto questa ipotesi, che dalla Brexit sia arrivata in realtà a chi è già anti-euro in Italia, l'idea che sta facendo 5 volte bene, perché come si vede da non si provocano, l'Europa non ti può mandare a quel paese. La butto sul tavolo perché mi ha colpito tragicamente, però non posso negare che può essere una lettura di quello che sta avvenendo. Non mi aspetto amori europeisti in questa campagna elettorale. Torniamo tra poco. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta della Belva. Ed eccoci qua in questa versione short per il sabato 30 di dicembre, oramai prossimi a stappare altre bottiglie per la fine dell'anno, per la fine dell'anno tutti comprati i conti della belva. Ma voi come capodannate, Carlo Alberto, in quale parte del mondo capodannerai? No, in parte nazionale, almeno qui siamo sul confine con la Svizzera. Se proprio butta male passo il Matterhorn e vado direttamente al Zermatt. Ho capito. Non andare su con tutta la neve che è scesa in moto, per favore, non siamo preoccupati. Mentre Renato? No, io sto a casa, è un periodo così. Ho capito. Non ti suicidare perché stai con i parenti, perché lo capisco. No, ma starò a casa da solo. No, non mi suicido, no. Assolutamente. Io a Mario invece devo concedere la clausola della riservatezza privata perché sì, consuma, è inutile che dici col gatto. Hanno un capodanno organizzato fantastico e io non dirò a nessuno, neanche sotto col tortura gatto. Dove io lo farò in treno sempre. Allegria. Notevole. Allegria, viva Trenitalia. Festeggi col personale di Trenitalia. Esattamente, sperando di non restare sequestrato come qualche lunedì fa mi è capitato con questo ritardo record. Io continuo a dire, io ho battuto il ritardo record della mia serie perché su un tabellone per la prima volta il mio record precedente erano 340 minuti di ritardo di un treno Trenitalia, invece ne ho visto uno che era in ritardo un Milano Salerno di 460 minuti. Non mi era mai capitato 7 ore e mezzo di ritardo. Però non le auguro a nessuno. 460 minuti butta meglio che 7 ore e mezzo. Dai, 460 minuti non avevo mai visto, però io spero di vivere a lungo per vedere anche 1000 minuti, capiterà sicuramente in Italia. Allora ragazzi, la verità è che Trump adesso io ve la dico, Trump domina sui giornali per le sue cazzate twitterole, però i mercati continuano a piacere fottutamente. La serie record inanellata da Wall Street quest'anno con oltre 70 sedute record è una roba da in tutte le serie storiche americane pazzesca. L'aliquota di questa riforma fiscale scassa deficit e debito americana per le imprese comunque ha un effetto sulla borsa che è pazzesco. Carlo Alberto, ma quindi voi acquisirete nelle tante imprese di cui ci dia sé, imprese americane a gogo oramai? L'America sta dando un segnale dal punto di vista del rapporto fra Stato e imprese molto interessante, e in effetti i mercati stanno reagendo ed è una scossa all'Europa che ancora si trastulla dietro a idee di fortezza fiscale. Secondo me è un segnale molto importante che va verso l'unica direzione possibile, ovvero che l'aliquota fiscale tendenziale per le imprese tende verso lo zero. Questa è la verità dei fatti, altro che web tax. E inoltre cambia profondamente il rapporto tra procedura fiscale e Stato. Quindi l'America, secondo me, da questo punto di vista non è soltanto Trump, non è solo la riforma dei repubblicani, è il grande ricongiungimento tra Trump e il Partito Repubblicano che si è consumato con questa riforma. L'Europa deve ancora cominciare a discutere di fisco. In compenso, se posso citare una cosa che mi sta particolarmente a cuore, nelle ultime due settimane l'Europa ha fatto due cose che non faceva da 50 anni. E che soprattutto in Italia sono rimaste totalmente sottaciute. E invece meritano. Una è, che io chiamo fiori rosa, fiori di pesco, è l'accordo permanente e strutturale sulla difesa. Voluto fortemente da Macron, resuscitato dopo il Trattato di Lisbona, che finalmente fa partire il grande progetto di difesa comune europea. È proprio l'inizio, sia chiaro, però anche qui l'accordo fatto fra... Ma mi spieghi perché fiori rosa, fiori di pesco, che sembrava una giornata dell'orgoglio gay, non ho capito. Perché chiama pesco spiegalo allora, lo so che si chiama pesco, però i nostri ascoltatori non lo sanno. Accordo di cooperazione permanente strutturato tra 23 stati europei per una difesa europea integrata anche dal punto di vista produttivo. Noi abbiamo 15 tipi di carri armati diversi, tantissimi modelli di aerei diversi, finalmente anche a fronte, e qui anche, come dire, la reazione a Trump, no? Vedere per credere, vedere per credere, voglio vedere un passaggio importante. La Krauss Maffei, l'industria francese era da solo, voglio vedere, speriamo. Un altro pezzo è la protezione civile europea, partita poche settimane fa, si chiama RescEU, cioè è una, come dire, una, richiamo la parola rescue, ovvero soccorso, è il primo grande progetto di protezione civile. Quindi i prossimi anni, che dovesse accadere, Dio non voglia, un altro grande incendio, pensa un po', Di Maio non dovrà più telefonare ai francesi per farsi mandare i Canadair, avremo una protezione civile europea. E questo però è un segnale importante, perché secondo me i popoli si costruiscono anche nei momenti di solidarietà e di difficoltà, sono i pezzi di storia che consolidano di più un momento culturale comune. Sei molto ottimista su questi sviluppi europei. Oscar, posso dire una cosa record di Wall Street? Sì. Che mi sta molto a cuore, visto che hai fatto fior di soldi tu, che scommettitore. No, no. Allora, in questi giorni è uscito l'ennesimo elenco dei 500 più ricchi del mondo, eccetera, eccetera, e le disuguaglianze, eccetera, eccetera. Allora, mi piacerebbe che i tuoi colleghi giornalisti, per una volta, riuscissero a separare reddito da patrimonio, perché si dimenticano che Bezos diventa ricchissimo perché ha tante azioni Amazon, la borsa continua a salire, ha portato l'azienda in borsa, esatto, e lui è ricco perché tutti quelli che hanno comprato Amazon stanno diventando ricchi e anche lui sta diventando ricco. Perché io sono andato per curiosità a guardarmi quanto prendono Bezos e Zuckerberg come stipendio. Bezos prende 81.000 dollari all'anno e Zuckerberg prende $1 all'anno di stipendio, quindi guadagnano meno di me. Sono diventati ricchi solo perché hanno fatto delle grandi imprese e le hanno portate in borsa. Fine. Lo so, però tu sai che ai giornalisti italiani non gli piace, ai giornalisti di tutto il mondo, però, a dirvi la verità, perché questa storia delle graduatorie Forbes è l'impresa editoriale che ha imposto le graduatorie annuali in un secolo e più di vita, però la maniera in cui finiscono sui giornali non è a quella adeguata per fare questa distinzione che dici tu, perché bisogna colpire ogni volta dicendo il turpe grid, eccetera eccetera. Poi oltretutto negli Stati Uniti la percentuale straordinariamente più elevata di coloro che stanno nella parte alta della graduatoria non ha ereditato ma ha costruito un'impresa, gente di prima generazione. Questa è un'altra cosa che si dimentica sempre di dire, perché rafforza ulteriormente quello che dici tu come ovvio. E quindi sai com'è, l'idea della ricchezza Sembra caduta dal cielo, invece sono persone che hanno portato in borsa. E tornando al discorso che faceva prima dei peer Carlo Alberto, l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che non abbiamo avuto nuove quotazioni. Cioè, secondo me i peer dovrebbero servire anche a incentivare i miei colleghi a portare le aziende in borsa. E non ci sono riuscite fino adesso. Vediamo, però io sono preoccupato del fatto che entra l'immobiliare nei peer e lì si rischia, vista la storia italiana con gli immobili. Rispondi una porta aperta, io non amo gli immobiliaristi, ma sai, io essendo un metalmeccanico siete proprio agli antipodi, diciamo. Vedremo, perché io temo molto. Cioè, benissimo quello che dice Carlo Alberto, i peer stanno funzionando, sì, perfetto, però tutti noi conosciamo le dinamiche per cui stanno funzionando. E l'esenzione fiscale, questo è poi che tutto quanto di quello poi vada davvero alle piccole imprese che meritano, non lo so, vedremo. Io ho un enorme punto interrogativo. Da comunque, quest'anno è stato l'anno record per le IPO, quindi per le quotazioni borsa, non in Italia, ovviamente. Ecco, l'Asia, signori, metà delle 3.000 circa, chiedo scusa, 1.600 circa. Quotazioni in borsa sono arrivate sostanzialmente dall'Asia Pacifica. E quindi avremo alcuni dei nuovi 500 rich men. Esatto, non c'è dubbio. Questa è una buona notizia, perché il mercato ribilancia verso l'Asia e l'Asia sta partecipando al processo di ripensamento del capitalismo mondiale. È una bellissima notizia che le IPO, certo, vorrà essere un po' più trasparenti. L'Asia deve ancora fare tanta strada in termini di trasparenza della corporate governance. Però, signori, questa strada è acceleratala. Noi siamo ancora qua a domandarci se vendere l'aziendina di famiglia. Tu, Renato, hai dato un ottimo esempio in questo senso, devo dire, ti faccio i miei complimenti. Il segnale a tutti per l'anno prossimo sarà: rimettiamo in discussione gli assetti di proprietà familiare, o il capitalismo italiano si ripensa anche dietro questa nuova linea mondiale, oppure rimarremo sempre l'ultima ruota del carro della crescita europea. L'ultima ruota del carro, sia pure con un fattore, ridiciamolo alla fine, quello che Mario ha detto all'inizio, questa è una crescita vigorosa, se poi la buttiamo a mare con decisioni di politica economica pubblica sbagliata, ciò malgrado fino a questo momento è vigorosa. Certo, se poi ci mettiamo a far saltare tutti i tetti che erano stati disposti, ma ho immesso lo a tempo, alla retribuzione pubblica dei dirigenti, e che dal 1° di gennaio, cari ascoltatori, ve lo ricordo, tanto alla Regione Sicilia quanto alla Camera dei Deputati tornano tutti a guadagnare chi 400, chi 500.000, chi 600.000 euro l'anno. Aspetta, quanto guadagna l'anno di come stipendio Zuckerberg? Cosa dicevi, Renato? $1 Pensa costa, no, la cosa ridicola poi è che ti, siccome ti mettono tutto, costa un, cioè lui guadagna un dollaro, naturalmente non è che lui guadagna un dollaro, perché poi da Facebook prende i dividendi, chiaro, è una cosa completamente diversa, e poi costa 5 milioni e 7 tra viaggi e sicurezza personale, ma quello è una, va bene, cosa. Ma in questo fine anno il miglior capodanno ai dirigenti pubblici italiani che tornano alla pacchia, perché tanto pagate voi, cari ascoltatori, e dovete essere felici a capodanno. Un tappo 100.000 euro in più a Tizio, un altro tappo 200.000 euro in più a Tizio, sentitevi ricchi nella depredazione pubblica. Il mio augurio a tutti è un anno in cui restino senza soldi tutti coloro che sono assolti dai giudici di Roma perché fanno i certificati falsi, che vengano licenziati i falsificatori pubblici. Questo anno non sarà l'anno prossimo, però questo è il mio annuncio. E intanto gli auguri ai compari. Auguri da Mario Seminerio. Auguri da Carlo Alberto Carnevale Maffè. Tanti auguri di un anno nuovo bello da Renato Cifarelli, il nonno. Continuate con Radio 24.